tornando alle ben più minimali vicende del pendolare, anche oggi attraverso il quasi Cile, questo paese immaginario, nel quale peraltro ho trovato cittadinanza, un paese lungo e stretto che si estende tra Lolgiata e Pomezia, che è il percorso di ogni mattina e anche di ogni tarda serata. È evidente che una persona che non può dire di vivere né a Lolgiata né a Pomezia né tantomeno a Roma finisce per trovare appunto cittadinanza in tutti i luoghi che attraversa nel suo percorso da pendolare. Credo che sia un fenomeno abbastanza diffuso tra i pendolari: tutte le volte che per esempio si decide di iscriversi a un circolo di tennis, in realtà è indifferente trovare un circolo di tennis vicino a casa o vicino al posto di lavoro, basta che si trovi in questo paese lungo e stretto attraversato dalla strada quotidiana. Quindi c'è tutta una serie di luoghi di servizio che mi ritrovo a frequentare: supermercati, centri commerciali, addirittura l'hotel Sheraton Eur Parco dei Medici, che è di strada, è molto comodo perché è un posto dove si lavora molto bene e nelle situazioni di ingorgo più inestricabili è un luogo dove fermarsi e finire il lavoro in attesa che fuori la follia finisca. Quindi ci si abitua a vivere in questa zona che è del tutto negletta, perché non è né la grande città d'arte che sarebbe molto vicina, né Roma, né la campagna, la bella campagna italiana, né la ricca provincia italiana. È qualcosa di cui non si parla mai, non è nemmeno la periferia da qualificare, è semplicemente una sequenza di luoghi collegati da strade, tant'è che qualcuno ha coniato il termine non luoghi per il fatto di non avere alcuna identità, per il fatto di essere semplicemente attraversati dalle persone che peraltro non vi abitano. Però appunto si sta affiancando a questo concetto di non domicilio il concetto di cittadinanza virtuale. Siamo tutti cittadini del proprio quasi Cile. In un vecchio post addirittura ho scherzosamente pubblicato la cartina del Cile, su cui ho poi sovrapposto i luoghi che attraverso. Chiaramente c'è molta disperazione in tutto questo, c'è anche una denuncia forse dell'assurdità che rappresenta il fenomeno del pendolarismo, che è una metafora dell'assurdità della vita in generale, in quanto è abbastanza difficile ammettere, accettare con se stessi di rinunciare sia a 2 ore di tempo libero da dedicare per esempio alla famiglia, sia a 2 ore di produttività, perché chiaramente non ci si trova sul posto di lavoro e non si riesce effettivamente a lavorare. Per fare che cosa? Per andare a consumare benzina che si paga con di tasca propria, evidentemente, e soprattutto ad inquinare il pianeta con un'autovettura dove, a meno che si riesca a fare ricorso al full car, come hanno fatto i colleghi di thecommute.org, è una macchina dove ci sei solo tu, e quindi oltre all'assurdità della situazione in sé c'è anche la solitudine, che è ciò che poi tutto sommato dà la forza anche al pendolare, per esempio, di parlare dentro un microfono e di ammorbare l'etere del podcasting con questo tipo di considerazioni.